Parole e poesia. Brevi incontri con poeti italiani. Andrea Zanzotto. Programma di Sabina Sacchi. Andrea Zanzotto, è notoria, arcinota la sua stanzialità. Io, certo, ho sempre voluto molto bene al mio luogo di nascita, i suoi paesaggi, e ho sentito amiche in sintonia con me, le persone in generale, però non ho mai fatto una vera scelta. Mi sono trovato a essere così, è stato un destino più che una scelta. È stato scelto? Ma forse sì, chissà, doveva esserci anche qualcuno che stava sempre nello stesso posto ma cercava di andare via di là con la fantasia, se non altro con la lettura dei libri, con dei trip invece che con dei viaggi spirituali. Lei ha cominciato a leggere da ragazzino molto? Beh, io ho sempre letto molto e devo dire però che a un certo punto, molto presto anche, mi sono accorto che non valeva neanche la pena di leggere moltissimo. Perché? Perché la quantità dei libri che c'erano a disposizione era tale da creare un senso di smarrimento. Cioè a dire, come non basterebbe una vita per leggere nemmeno la millesima parte dei libri che ci stanno intorno. Ricordo che già Baretti nel Settecento aveva fatto la stessa osservazione molto acutamente, eccetera, ma chissà quanti prima, insomma. Oggi, poi, la valanga dei libri è tale che si fa appena il tempo di leggere la copertina ed è molto difficile orientarsi in mezzo ad una quantità di questo genere, un supermarket traboccante, che in fin dei conti finisce poi per coprire e cancellare le tracce di una cultura salvifica, diciamo, non dico vera, non dico sicura, ma che dia tracce di speranza, salvifica in questo senso, ecco, che è connessa naturalmente alla conoscenza di verità, purtroppo molto spesso negative, ma che devono essere poi superate con un certo slancio possibilmente. Il 18 ottobre 2011 è morto alla bella età di 90 anni il poeta trevigiano Andrea Zanzotto. Una voce intensa, si è detto, che con sapiente raffinatezza linguistica, complessa e rarefatta al tempo stesso, si è fatta universale. Nato a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso, nel 1921, traduttore e critico letterario, è stato uno tra i poeti più significativi del secondo Novecento letterario ed un attento quanto acuto osservatore del nostro tempo. Ne parliamo con Noemi Ghetti, fine conoscitrice dell'opera del poeta e autrice di opere di critica letteraria e di narrativa storico-letteraria, di cui ricordiamo L'ultima nata, L'ombra di Cavalcanti e Dante per l'Asino d'Oro Edizioni. La persona più giusta per parlare di un suo conterraneo. Montale dice della poesia e del linguaggio di Zanzotto: a lui tutto serve, le parole rare e quelle dell'uso e del disuso, l'intarsio della citazione erudita e il perpetuo ribollimento del calderone delle streghe. Sullo sfondo, poi, può esserci tanto il fatto del giorno quanto il sottile richiamo psicologico. È un poeta percussivo, ma non rumoroso. Il suo metronomo è forse il batticuore. Ecco, Noemi Ghetti, partiamo da queste parole di Montale. Sì, certo, questa famosa, diciamo, giudizio, anche Montale dette di Zanzotto, direi certamente sì. Da grande poeta qual era, caratterizzato, difficile, sarà difficile per noi parlarne meglio. La cosa interessante, direi, di questo, partirei da una parola, diciamo, questo intarsio di parole, che è forse la caratteristica più evidente, diciamo, della poesia, più immediata anche della poesia di Zanzotto. Zanzotto, con una metafora, diciamo, che è di origine dantesca, usava dire che anche lui inseguiva, dava la caccia a quella pantera profumata di cui parlava Dante, quando nel De vulgari eloquentia cercava di identificare la lingua adatta per scrivere la commedia. Dante dichiarò nel De Vulgari Eloquentia che era introvabile quella pantera che attirava, diciamo, per il suo alito, per il suo profumo, era assolutamente introvabile perché non risiedeva in nessuna parte d'Italia, non corrispondeva ad alcuno dei dialetti italiani. E riprendendo questa metafora, Zanzotto disse che certo, no, non poteva essere trovata, perché la pantera profumata era quell'emozione subita durante la vita, nell'infanzia, ma in realtà non poteva essere catturata mai, perché la pantera profumata si realizzava nel momento in cui il poeta reinventava, e lì era grande, il poeta reinventava la lingua scrivendo, e che quindi rimaneva un oggetto misterioso, un oggetto introvabile. Zanzotto in realtà si volge alla lingua dell'infanzia, alla lingua che nel nostro paese, perché io sono vissuta, nata e vissuta a lungo nel paese di nascita di Zanzotto, un paese ai piedi delle Prealpi, Pieve di Soligo, questa lingua dell'infanzia, quella che i bambini inventano nelle case, nel privato delle case, con un termine dialettale, si chiama petella. Ecco, dobbiamo sgombrare subito il terreno da ogni equivoco. Non c'è, diciamo, in questa scelta di Zanzotto nessuna implicazione, diciamo, di tipo di rivendicazione autonomista padana, diciamo, non corrisponde affatto, non è stato infatti una musa per niente riconosciuta per fortuna dai leghisti. In realtà forse preferirei leggere una... Benissimo. Posso leggere? Assolutamente sì. Alcune righe di autoritratto in cui lui parla proprio della sua infanzia, eppure gioisco ricordando certi momenti molto lontani della primissima infanzia. Io provavo qualche cosa di infinitamente dolce ascoltando cantilene, filastrocche, strofette, anche quelle tipo Corriere dei Piccoli, non in quanto cantate, ma in quanto pronunciate o anche semplicemente lette, in relazione a un'armonia legata proprio al funzionamento stesso del linguaggio, al suo canto interno. Ho una percezione estremamente viva e attuale di queste lontananze, in cui prese forma per me una vaga, inafferrabile idea o presenza di poesia. Pin, penin, valentin, oh mio ben, te cerco in tel fogo, in tel giasso, te cerco e no che riesso, te cerco e no che la fasso. Pan e dedin, polenta e nasin, chi me fa dormir, chi me fa morir, tutta palme amor, chi me fa tornar, coi basetti che ciuccia, coi brassetti che strucca, con la camisetta più bella. Lese le voglie, i caprissi d'Echea, che ieri la iera putea. Ecco, possiamo dire che c'è un'esigenza interna fortissima che si esprime poi in versi. Assolutamente sì. Mentre invece, per esempio, Zanzotto, mi ricordo, ne parlammo anche in occasione di un'intervista che io gli feci per l'85esimo compleanno. Sì, un'intervista sul Left dell'8 settembre del 2006, una bellissima intervista, tra l'altro. Tra l'altro, un parlar fondo come Bazar. Come Bazar, come non Bazar. Lo dico bene perché non sono ovviamente della sua terra, però insomma mi sembra un titolo evocativo, un titolo rappresentativo che ha un senso. È un verso di Zanzotto, un parlare profondo come baciare. E mi ricordo parlammo anche del rapporto con il latino, diciamo, che naturalmente ha tanta parte il ritorno al latino dopo 80 anni di poesia d'amore fatta in polemica, se vogliamo, e anche contro il latino ecclesiastico. Nel 200 Dante ritorna in qualche modo al latino con un massiccio innesto di terminologie prese dalla scolastica, dai testi dei mistici medievali, quindi dei testi della Chiesa. E mi ricordo che poi si trova anche scritto, insomma, Zanzotto fu categorico sul latino, una lingua sacrale la definiva, una lingua morta e una lingua della morte, eppure una lingua che ha preteso di essere universale e che riassorbendo al suo interno perfino il greco, in qualche modo c'è pure riuscita. Ecco, questo era quanto lui sosteneva. Quindi per lui era assolutamente impraticabile la via che per esempio invece Sanguinetti ha utilizzato, che è quella di riutilizzare anche i latinismi, inserire nell'intarsio poetico di questi poeti della fine del Novecento, di certe avanguardie, di inserire i termini latini. Questa è una cosa che lui, che era stato professore di lettere, professore delle medie, quindi anche lungamente insegnante di latino, non riteneva assolutamente adatta alla poesia, una lingua che non era da utilizzare per la poesia. Sì, tra l'altro lui in un'intervista che ho trovato parla di che gli stessi poeti tendono a gettare il velo su quella che è la loro poetica reale. Basti pensare, dice lui, al Dante del De Vulgari Eloquentia, che contraddice la sua stessa poesia, mi sembra. Esatto, è vista con assoluta chiarezza, diciamo, questa caratteristica poi tipica di Dante, che è quella di affermare e nello stesso tempo di negare. La pantera, lui rivendica che l'essenza della poesia con un'immagine, una metafora che poi diventa allegoria, questa della pantera profumata, che nei siciliani invece era l'immagine della donna amata, e però nello stesso tempo in cui la evoca dice che non è introvabile, non la si può trovare, e che quindi tanto vale evolversi a un metodo, detto con le sue parole, razionabilius, certo, più razionale per trovare la poesia, la lingua adatta a scrivere un poema morale, diciamo spirituale, come la Divina Commedia. La poesia crea mito. E come, da cosa nasce la poesia? Nasce da una spinta che senza dubbio si può dire creatrice di mito, una spinta mitopoietica. In effetti, nella decantazione che certi elementi percettivi e di esperienza vengono ad avere nel nostro inconscio, nelle nuove aggregazioni che si costituiscono tra di loro, sta la spinta che porta verso la creazione poetica. Quindi, a mio avviso, mi sbaglierò, io non faccio il docente di estetica né di filosofia, però la mia esperienza personale mi dice proprio questo, che almeno per me c'è un rimaneggiamento, una ristrutturazione di molti miti che nascono, di molti elementi della percezione della realtà quotidiana e della nostra stessa esperienza di ogni giorno, che appunto ristrutturati nell'inconscio in un certo momento spingono in su, non si sa che cosa, spingono certe parole che si rivelano quasi come parole chiave, perché poi ne nasca un componimento che si struttura appunto quasi come una rivelazione mitica. Ecco, il rapporto di Zanzotto con il dialetto? Il rapporto di Zanzotto col dialetto, in parte ne abbiamo anche già parlato, è un repertorio, anche leggendo questo brano, è evocativo, diciamo, di un'infanzia, di un primo anno di vita, dei primi anni della vita, per cui è un serbatoio di suoni, con un suo canto interno, diciamo. A Zanzotto, quando utilizza le parole dialettali, le utilizza, o quando scrive, non è un poeta dialettale, ecco, questo non può proprio essere detto, le utilizza per la valenza evocativa, suggestiva che hanno quei suoni, assolutamente, quindi non possiamo assolutamente considerarlo, diciamo, poeta dialettale. Ecco, direi piuttosto questo, che magari è curioso perché è una caratteristica che potremmo in qualche modo avvicinare alla poetica leopardiana. Quando Leopardi dice che sono sommamente poetiche, la poetica dell'infinito e del vago, perché è chiaro che le parole dell'infanzia, del petel, perché non è il dialetto tout court, quello di cui parla Zanzotto, è il dialetto privato parlato nelle case dai bambini, e che ogni famiglia ha il suo, al proprio. Ecco, direi che questa cosa si avvicina alla poetica del vago e dell'indefinito di Leopardi. Leopardi dice che soprattutto i suoni di origine sconosciuta nella campagna di notte che raggiungono l'orecchio sono estremamente poetici. E quindi come se tendesse ad avvicinarsi anche Leopardi, magari senza attingervi mai, diciamo, a quella prima fonte, se vogliamo, no, di poesia, di scrittura e di suono, che è la nascita di ciascuno, che non assomiglia a niente di già sentito e già dato, perché è una creazione personale. Quindi come se il poeta incessantemente andasse alla ricerca, alla caccia. La pantera profumata fosse questo misteriosissimo primo anno di vita, se non addirittura la nascita. Ecco, il suo forzare proprio la parola, sì, potrebbe avere questo senso. Sì, forzare la parola ha questo senso anche perché anche Zanzotto stesso, diciamo, non la fa corrispondere mai con l'invenzione di parole nuove, parole che non ci sono. Le parole vengono forzate fino ai limiti estremi, diciamo, nella direzione di, magari distruggendo il significato, di rintracciare o di evocare un nuovo senso alla parola. Quello sì, quello assolutamente sì. Collocate in un determinato contesto con il loro suono, pian pianino, diciamo, si avvicinano ad acquisire un senso nuovo che magari nel linguaggio della comunicazione normale è completamente inesistente, se non smarrito, anche proprio non è mai esistito. Ecco, Zanzotto, nel linguaggio di Zanzotto si moltiplicano delle esperienze, il linguaggio muta fra ermetismo, sperimentazione, abbiamo detto dialetto, è un po' il riflesso anche della sua vita, di passaggi della sua vita che hanno attraversato tutta la cultura poi del Novecento, a partire dalla Resistenza fino ad attraversare l'esistenzialismo, il marxismo, la psicanalisi. Che quadro possiamo fare? Come possiamo descrivere l'esperienza di Zanzotto attraverso tutte, diciamo, questa vita così ricca, così influenzata in questo modo da più elementi? Che rapporto c'è fra il poeta Zanzotto e tutte queste esperienze? È un rapporto molto singolare, molto particolare, perché Zanzotto era sospeso tra questi due, diciamo, poli: uno, una riservatezza e una condizione di emarginazione e di marginalità che lui poi teorizzava, diciamo, del poeta rispetto alla cultura, diciamo, contemporanea. Nello stesso tempo, in realtà, è stato, non essendosi mai sradicato dal paese natale, sempre la scelta è stata di vivere lì, sempre. In realtà ha partecipato dalla Resistenza in poi a tutte, lui direi più che alle esperienze del marxismo e del comunismo, ha partecipato, diciamo, alla cultura dell'esistenzialismo, le terribili battaglie esistenzialiste, verrebbe poi a definire a posteriori, in particolare della psicanalisi, si avvicinò, si accostò anche a Lacan. Certo, poi diciamo se ne allontanò quando io ebbi modo di parlargli, mi ricordo di essere la considero un'esperienza del tutto negativa, insomma, questa del lacanismo. Lacan, ora cerco di ricordare, diciamo, le esperienze, le parole con cui lo definiva, ma lo definiva proprio un guru che si arrampicava sul nulla. Ecco, queste erano le parole.